Lezione 1. Ciao, come stai? Ciao Luciana. Ciao Michele. Come stai? Bene, tu? Bene anch'io, grazie. Senti, posso presentarti la mia amica Hildegard? Hildegard, questo è Michele. Piacere. Piacere. Senti, io devo andare un attimo di là. Ragazzi, vi lascio un attimo, Va bene. A fra poco. Sì, ci vediamo dopo. Sì, scusi, non ho capito bene il suo nome. Come si chiama? Mi chiamo Hildegard Schneider. Come scusi? Hildegard Schneider. Hildegard è il nome e Schneider è il cognome. Ah, bene. E lei è tedesca? Sì, sì, sono tedesca. E di dove? Di Freising. Freising? Dov'è? In Baviera, vicino a Monaco. Ah, certo. Ma lei parla benissimo l'italiano, complimenti. Grazie, è perché mio marito è italiano. Ah, per questo. E lei è qui in vacanza? No, magari, sono qui per lavoro. Ah, per lavoro, che lavoro fa? Sono architetto. Ah, bene. Sì, senti, ma noi siamo amici di Luciana, possiamo darci del tu, no? Sì, sì, volentieri, sì, sì, è naturale. Ma senti, scusa, non mi ricordo bene il tuo nome. Ah, io mi chiamo Michele. Ah, Michele, sì, sì. Michele, sì. E tu sei di Firenze? No, no, no, io sono di Roma, ma abito a Firenze da 6 anni, sì. Cosa fai qui? Studi? No, non più, lavoro in una libreria. Bene. Sì, senti, vuoi bere qualcosa? Non so, un vino bianco, un vino rosso? Preferisco il prosecco, se un prosecco, possibile. Benissimo, sì, sì, un prosecco. Bene, allora, ecco qui, allora, salute, Alla salute. Salute.